Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Se c'è un momento cruciale proprio nel rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione, questo è il momento in cui la pubblica amministrazione amministra la giustizia, quindi quando ci si rivolge alla giustizia. Non parliamo di grandi delitti o di criminalità organizzata, piuttosto parliamo di contese legali minori, dalla lite condominiale alla contestazione di una multa, magari di un credito e così via. Parliamo insomma di giustizia civile, che però in Italia è particolarmente lenta e farraginosa. È l'unico paese al mondo, l'Italia, in cui si può pensare di minacciare qualcuno dicendogli fammi causa anziché ti faccio causa. In ballo c'è questo aspetto che è, diciamo, centrale per quanto riguarda il rapporto di fiducia tra cittadino e istituzioni, ma ci sono anche altri aspetti altrettanto importanti. Per esempio, molte aziende straniere si rifiutano di investire nei paesi nei quali non è disponibile una giustizia civile e amministrativa che sia rapida ed efficiente. Ebbene, qualcosa che potremmo definire lunare rispetto allo standard italiano attuale, che quindi sarebbe un balzo in avanti di grandissima gittata, lo si sta però tentando. Parliamo nello specifico di EJRM, un progetto che si propone di ideare, realizzare e sperimentare delle modalità virtuali, quindi molto innovative, di gestione delle relazioni tra il cittadino e il sistema giustizia. A coordinare questo progetto c'è Enza Messina, che è professore del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione dell'Università della Bicocca di Milano. A parlare con Enza Messina di questo progetto ci ha pensato invece Federico Pedrocchi, che voi tutti bene conoscete. Sentite che cosa ne è venuto fuori. L'idea è quella di costruire appunto una piattaforma informatica che consenta al comune cittadino, attraverso delle modalità virtuali, di classificare, formalizzare e definire e risolvere in autonomia un contenzioso, in autonomia anche parziale. Proviamo a spiegarglielo bene. Quindi immaginiamo uno scenario, per esempio, dove un cittadino voglia valutare la possibilità di contestare quello che ritiene un provvedimento illegittimo nei suoi confronti, come per esempio una multa. Oppure... Sì, attualissimo. Allora, il cittadino accede al portale e il sistema lo guida alla selezione della categoria del contenzioso. In caso di ambiguità, perché la richiesta può essere fatta anche in linguaggio naturale, verranno estratte delle informazioni automaticamente e il sistema avrà la possibilità di un'intervista guidata che aiuta l'utente a definire il suo caso. Quando le dice linguaggio naturale, vuol dire che uno lì scrive un po' che cosa pensa della sua situazione in modo abbastanza sciolto e il sistema riconosce questa scrittura non formale, no? Ma sostanziale. Saranno implementate delle tecniche di processamento del linguaggio naturale, tecniche computazionali per l'estrazione delle informazioni che aiuteranno appunto in questo, analisi semantica, eccetera. Dopodiché ha istruito una propria pratica praticamente. Dopodiché ha istruito una propria pratica e a questo punto gli può far vedere le diverse strade che ha a disposizione, quindi come può risolvere questo caso e quindi risolverlo attraverso una mediazione in autonomia oppure aiutarlo nella selezione del supporto legale necessario, quindi con la selezione di un avvocato, eccetera. E a questo punto metterà anche a disposizione tutti gli strumenti di comunicazione e condivisione necessari perché le parti interagiscano, quindi tipo stanze virtuali, insomma, dove c'è una condivisione dei documenti, ovviamente con diversi gradi di accesso e di abilitazione. Condivisione di documenti con chi? Condivisione di documenti con tutti gli attori del problema, quindi sia il cittadino, l'avvocato, il giudice anche? Il giudice, ho capito. Okay. Tutti gli attori della causa, diciamo. Quindi ci sono tre componenti principali in questo sistema, diciamo. La base di conoscenza, quindi deve essere costruita una base di conoscenza con tutte le informazioni, i concetti, entità logiche, fisiche, gli attori coinvolti, le possibili interazioni tra attori e i flussi informativi. Sì. Questa base di conoscenza viene riempita attraverso interviste ad esperti, ma anche con attraverso l'utilizzo di metodi computazionali che estraggono informazioni, come dicevamo prima, anche da casi pregressi descritti in linguaggio naturale. Quindi entra in gioco la seconda componente, che è appunto l'insieme dei metodi computazionali e di algoritmi per l'estrazione di informazione da testi strutturati e non strutturati e per il ragionamento automatico. Sì. Questo ragionamento automatico è in grado di sostenere ragionamenti per analogia, diciamo. Quindi genera delle ipotesi sulla risoluzione del contenzioso e presenta alternative ragionevoli sulla base di casi simili già visti, diciamo. Consiglia l'utente praticamente. Consiglia l'utente e gli permette anche di simulare eventuali gli esiti di eventuali azioni che intraprende, andando per dire per esempio a dire qual è la percentuale di successo, qual è stata la percentuale di successo in passato di un caso simile. Ma senta, si può arrivare fino proprio alla produzione di un giudizio, oppure tutto questo porta fino a un momento in cui però ci si trova in aula con un giudice? Allora, questo potrebbe portare anche alla conclusione in giudizio. Ci sono già dei sistemi per la risoluzione di conflitti online, per esempio nella gestione di conflitti che sorgono per esempio in contesti di e-commerce, e vengono già gestiti in modo completamente virtuale. Il progetto parte adesso, entro quanto tempo dovremmo riuscire a vederlo in funzione? Il progetto è appena partito, finirà fra 3 anni e quindi alla fine del progetto sarà disponibile un prototipo. Beh, insomma, chissà che questa giustizia virtuale non possa poi rivelarsi invece molto concreta. Noi ci fermiamo qui, appuntamento a domani.